Gli angeli han fatto con l'ali dal cielo una scala, e lungo la scala qualcuno cammina da te. Qualcuno cammina e va, e va, e va, e già una manina ti fa son qua, e sboccia da un giglio vermiglio tuo figlio, ma come di già. E il bimbo cammina e va, e va, ginnasio, liceo, poi l'università, e un giorno vuole dirti qualcosa, si sposa di già, poi già cavaliere tu, poi già tu. Qualcuno cammina in un giardino d'oro, un vecchio e un bambino che giocano tra loro, e mentre una rosa si sfoglia, germoglia un fiore. Cammina in un giardino d'or, un vecchio e un bambino che giocano tra loro, e mentre una rosa si sfoglia, germoglia un fior, catena di rose e di spine.